I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Tra i numerosi punti toccati dalla Corte dei Conti ieri nel suo rapporto sulla finanza pubblica, alcuni meritano di essere messi in evidenza anche perché vanno contro alcune idee comuni. La Corte dei Conti fa notare che la pubblica amministrazione, quanto a stipendi del suo personale, la spesa per il personale, ha avuto un calo di 8 miliardi e 700 milioni negli ultimi 5 anni, pari al 5%, con la conseguenza che a fare aumentare la spesa pubblica non sono certo stati gli stipendi dei pubblici dipendenti. In aggiunta arriva anche una bacchettata per i governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Tra il 1995 e il 2014 la quota delle entrate fiscali di pertinenza delle amministrazioni locali, regioni e comuni in primis, è praticamente raddoppiata, ma, sottolinea la Corte dei Conti, non per colpa delle singole regioni e comuni, ma per scelte precise e specifiche operate dal governo centrale, ossia ridurre i soldi che da Roma vanno agli enti locali e quindi portare un aumento della tassazione degli enti locali stessi. C'è un ultimo punto però su cui vorremmo soffermarci. La Corte dei Conti fa notare infatti che molto raramente esiste una verifica della reale efficacia dei provvedimenti, soprattutto in materia di evasione fiscale e riduzione della spesa pubblica, inseriti nelle varie leggi finanziarie. Non si fa cioè quel controllo ex post per vedere se le attese di gettito siano state rispettate e soprattutto per valutare la reale efficacia dei provvedimenti presi, al di là delle intenzioni presentate a suo tempo nella legge finanziaria. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Sul Jobs Act, che poi sarebbe meglio chiamare riforma del mercato del lavoro, il governo sta sicuramente procedendo con determinazione. 4 decreti attuativi sono in vigore o sono prossimi ad esserlo, a partire da quello sul contratto a tutele crescenti e inclusi i 2 sul riordino della contrattazione e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro approvati ieri. Sono entrambi importanti. Il primo, tra le altre cose, razionalizza l'uso delle collaborazioni e dei contratti a termine, il secondo amplia le possibilità di utilizzare strumenti come i congedi parentali. A questi decreti se ne aggiungono altri 4 per i quali ieri è stato avviato l'iter che porterà al varo definitivo. Sono i testi sulle politiche attive, cioè il sistema che ha la finalità di supportare chi è in cerca di lavoro, quello sulla nuova cassa integrazione che sarà limitata a 24 mesi ma verrà estesa anche alle piccole imprese, e poi le semplificazioni e la razionalizzazione del sistema delle ispezioni. Spesso diciamo che le regole, le leggi da sole non bastano a creare occupazioni. Vero, naturalmente, servono anche investimenti, servono politiche per la crescita, serve fiducia. Tuttavia è possibile che leggi più moderne, che regole più attuali siano più adatte a fornire risposte concrete al problema della mancanza di lavoro, che resta per i giovani, ma non solo per i giovani, la principale emergenza di questa lunga fase economica negativa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.